Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come già vi hanno anticipato i nostri GR, c'è stato un ripensamento, c'è chi dice dietro fronte, ma insomma da quello che si capisce dovrebbero essere modificate le norme nella manovra finanziaria che rendevano impossibile calcolare gli anni dell'università e del servizio militare ai fini delle pensioni di anzianità. Da quello che si capisce forse potrebbe avere un valore per il futuro, quindi non rendere più possibile il riscatto degli anni di studio all'università o del servizio militare per la pensione di anzianità, e quindi non, però mancherebbero all'appello 1,5 miliardi di euro, perché tanto valeva su 3 anni questa misura, e che vanno a sommarsi ai 3,5-4 miliardi che mancano all'appello dopo i ritocchi fatti alla manovra finanziaria, nel caso specifico l'eliminazione del contributo di solidarietà per i redditi sopra i 90.000 euro lordi dei lavoratori privati, restano infatti in vigore per i dipendenti pubblici e per i deputati, e anche la riduzione del taglio agli enti locali, una riduzione intorno a 2,5 miliardi di euro. Sarà forse anche per questo che l'Unione Europea ha fatto sapere oggi, e ne parleremo anche in apertura, che analizzerà con attenzione i contenuti della manovra italiana, e soprattutto analizzando quelle che si chiamano misure strutturali per la crescita, ossia non elementi una tantum, non elementi che vanno a correggere i conti per l'esercizio in corso, ma non per gli esercizi futuri. E il tutto arriva in una giornata, tra l'altro l'Unione Europea ha fatto sapere insomma che già erano arrivate delle raccomandazioni lo scorso giugno, che portarono la prima finanziaria del luglio e poi la seconda finanziaria di agosto. Il tutto avviene nel giorno in cui l'inflazione, ce lo comunica l'Istat, torna a rialzare la testa ad agosto. L'aumento dei prezzi al consumo è stato il massimo dal 2008, al 2,8% il livello annuale, cioè agosto 2011 su agosto 2010, e un 2,8% di crescita dei prezzi al consumo non si vedeva appunto dall'agosto dal 2008. Ci sono delle componenti straordinarie: i prezzi dei traghetti, ce ne siamo occupati anche noi a maggio-giugno, aumentati in media del 30% rispetto al mese di luglio e del 60% rispetto a un anno prima. Ci sono anche i biglietti aerei, più 17% rispetto a luglio, più 5% rispetto ad agosto. Anche i treni sono aumentati ad agosto rispetto a un anno prima di quasi il 10%. E poi c'è la componente anche energetica, che a sua volta va a incidere, secondo le varie categorie, quindi traghetti, treni, aerei, proprio sui prezzi finali dei trasporti, per cui la matrice, l'origine sarebbe di carattere energetico. Di questo parleremo. Anche una buona notizia ogni tanto, è difficile in questo periodo, però so che alcuni di voi sorrideranno, ma la vendemmia quest'anno sembra essere un'ottima vendemmia. Vedo che anche il tecnico sorride. No, lo dico seriamente, invece l'export vitivinicolo è il principale export del settore agroalimentare in Italia. Siamo leader mondiali, i volumi sono calati, ma la qualità sembra ottima. Visto il periodo, occupiamoci di almeno di vendemmia, che da lì arrivano cose buone. Un ascoltatore suggerisce di chiamare questo programma Che manovra che fa? No, vabbè, vediamo. Adesso la manovra arriverà comunque a una sua definizione. 349-238-6666 per i vostri sms. C'è un'altra buona notizia, e questa ancora più consistente: i mercati finanziari sono tutti ben intonati. Milano non fa eccezione, più 2,40% in questo momento Milano, più 2,70 Parigi, più 2,70 anche Francoforte, più 2,30 Londra, l'America guadagna lo 0,80%, l'euro a quota 1,44, bene in particolar modo Fiat, più 6,5 Pirelli, più 5,60 Saipem, più 5,20 in pregiro, più 4,5 come Tod's e Mediolanum, il 4,30 Prismian, il 4,20 l'automatica, il 4% di rialzo di Campari, il 3,90 quello di Finmeccanica, ma anche di Exor, quindi la controllante di Fiat, e Fiat intesa come auto guadagna il 3,5%. Concludiamo con Luxottica più 3,80 e Tenaris più 3,30%. Di negativo c'è solo ma lieve la Popolare di Milano che perde lo 0,40 e Intesa San Paolo che perde lo 0,20%. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Al di là della borsa, il petrolio ancora in leggero calo, $88,23 al barile, l'oro è in calo ma sempre a livelli record, quindi sempre sopra i $1,800 l'oncia, siamo a $1,826 l'oncia. Dagli Stati Uniti è arrivato una richiesta all'antitrust americana di bloccare la fusione fra T-Mobile e AT&T, una fusione che vale $39 miliardi. AT&T infatti raggiunse un accordo con Deutsche Telekom per acquistare la filiale americana di T-Mobile, $39 miliardi punto il valore dell'operazione, e se completata l'operazione si porterebbe in casa di AT&T 34 milioni di nuovi clienti, in questo modo superando Verizon Wireless come numero di clienti. Una notizia non bella arriva dagli Stati Uniti dopo il dato di ieri sulla fiducia dei consumatori americani, scesa a livelli bassi, bassissimi, non si vedevano dal 2008, ed è il numero di licenziamenti programmati nel mese di agosto, più 47% rispetto a un anno prima. Ed è una cifra inquietante, 47% in più di licenziamenti programmati negli Stati Uniti, così come l'indice dei responsabili per gli acquisti misurato è l'indice PMI di Chicago, è sceso ad agosto a 56 punti, un calo superiore alle attese degli analisti. Ci spostiamo in Europa, dove i vari paesi sono alle prese con misure e manovre per ristrutturare il debito, per renderlo meno attaccabile dalla speculazione. Anche in Germania, dopo la Francia, arriva una proposta che arriva dagli stessi ricchi, chiamiamoli così, e quindi da chi percepisce i redditi più alti o ha i patrimoni più alti, di pagare più tasse. Un piccolo sondaggio condotto dal settimanale Die Zeit, in edicola domani, vede la maggioranza dei miliardari o milionari tedeschi essere favorevoli a quella che è stata la proposta del miliardario americano Warren Buffett e poi ripresa anche nel dibattito italiano, ricorderete l'intervista sul Corriere della Sera di Montezemolo su questo, proposta che devo dire poi non si è tradotta in nulla nella finanziaria, nel senso che non esiste una tassazione più forte anche a livello eccezionale né per le fasce di reddito più alte e soprattutto per i patrimoni più alti. Una notizia parzialmente buona arriva dalla disoccupazione in Italia, è stabile all'8% a luglio, quindi i disoccupati restano 2.009.000 persone, l'occupazione a luglio cresce leggermente dello 0,4%, ricordiamo che la disoccupazione si registra tra tutti quelli che cercano lavoro, mentre l'occupazione va a vedere chi è occupato tra chi potrebbe lavorare. È una differenza non da poco, perché molte persone, pur essendo in un'età in cui potrebbero lavorare, decidono di non lavorare, quindi non figurano tra i disoccupati. Dentro queste due notizie ce n'è una, a mio avviso, particolarmente rilevante, ossia vi è un leggerissimo calo nella disoccupazione giovanile. L'Italia purtroppo, soprattutto al sud, ha un record, come è emerso anche la settimana scorsa, di disoccupazione giovanile. Poi molti obiettano che al sud in realtà il dato sarebbe falsato dall'enorme peso che ha il nero nel nostro mezzogiorno, e quindi anche i lavori non regolarizzati, i lavori che sfuggono, diciamo, alla statistica. Però c'è una diminuzione dello 0,2% rispetto a giugno, ma attenzione, è una disoccupazione giovanile che è in aumento rispetto a un anno prima di quasi un punto percentuale. Su questo la nostra Valentina Furlanetto ha raggiunto il direttore delle statistiche sociali dell'Istat, Linda Laura Sabadini. Ci troviamo comunque in una situazione in cui il tasso di disoccupazione giovanile continua a essere elevato e ad essere più elevato della media europea. Rispetto all'Europa, che cosa si può dire di questo tasso di disoccupazione giovanile? Rispetto all'Europa possiamo dire che abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che è più elevato della media europea. A livello dell'Europa 27 siamo al 27%, con un meno 0,1 rispetto a giugno, e mentre in Italia siamo al 27,6 con un meno 0,3, quindi un livello più alto, non il più alto, perché ci batte notevolmente la Spagna che sta al 46,2. Abbiamo invece un dato di disoccupazione giovanile della Germania che è molto più basso, al di sotto del 10%. Noi abbiamo molto documentato negli ultimi due rapporti annuali le criticità della situazione giovanile italiana. Come sappiamo, la crisi ha colpito in particolare i giovani, l'80% dei posti di lavoro che si sono persi, della diminuzione di occupazione era giovanile. Questo ha fatto sì che in qualche modo la povertà non aumentasse, perché la maggioranza di questi giovani viveva all'interno della propria famiglia di origine, quindi ha avuto la protezione in qualche modo della famiglia, però crea ovviamente un problema di prospettive proprio per una generazione. E allora, inflazione, ne parleremo anche più avanti, da un lato, di dati sulla disoccupazione, ma soprattutto mi dispiace che alcuni dicono basta parlare di questa manovra finanziaria, tanto non si capisce più niente. Ho capito, che si capisca o non si capisca, il nostro compito è raccontarvi anche le modifiche intercorse giorno per giorno dal testo originario del governo. E dicevo, al di là dell'inflazione e della disoccupazione, l'altra grossa notizia di oggi riguarda il tema, se vogliamo, pensionistico, previdenziale, quello che ha fatto arrabbiare moltissimo gli ascoltatori. Non è vero che il sottoscritto tifasse per la norma che levava dal calcolo della pensione il riscatto della laurea e del servizio militare. Abbiamo fatto un altro ragionamento ieri, che adesso cerchiamo anche di esplicitare un po' meglio, forse. Il tutto nel giorno in cui non solo l'Europa vuole maggiore chiarezza sulle parti strutturali per la manovra, ma attenzione, dice le parti strutturali per la crescita, e traduco, l'Europa sembra dire attenzione, la manovra non può contenere solo tagli intesi come maggiori tasse, maggiori entrate fiscali e minore spese, perché se poi il vostro PIL non cresce o cresce meno delle attese, come stimato dalla Banca d'Italia ieri e dal Fondo Monetario Internazionale il giorno prima, vi ritrovate con il problema, perché un PIL che cresce meno porta a un deficit inesorabilmente più pesante, a un rapporto deficit-PIL che non può essere azzerato nel 2013 come promesso dall'Italia all'Europa. E poi arriva anche la stampa straniera, Wall Street Journal e il Financial Times, i due principali quotidiani economico-finanziari al mondo, hanno dedicato alla manovra italiana degli approfondimenti, e il titolo in sostanza potrebbe essere analogo: un'Italia che si scopre con i giorni contati e che deve confermare la fiducia che la Banca Centrale Europea ha riposto nel nostro paese comprando decine di miliardi di euro di obbligazioni nei giorni peggiori dell'attacco finanziario dei mercati, quindi tra fine luglio e soprattutto inizio agosto. E in questo è molto esplicito il Wall Street Journal, dice il motivo per cui i rendimenti dei titoli degli Stati italiani sono calati, quindi sono meno preoccupanti, meno allarmanti, non è perché l'Italia ha fatto qualcosa di suo, è perché la Banca Centrale Europea ha garantito sul debito comprando sul mercato secondario obbligazioni, ma adesso occorre che l'Italia ripaghi questa fiducia. È ancora più duro il Financial Times, che in prima pagina, parlando della nostra manovra, dice l'Italia sta dando con questa manovra un messaggio confuso ai mercati, serve una coerenza, si rischia un confronto molto duro e aspro con la Banca Centrale Europea, e il ministro Tremonti appare isolato. Non è chiaro, conclude il quotidiano britannico, come la Banca Centrale Europea reagirà alle modifiche apportate alla manovra, quelle modifiche che fanno mancare, lo abbiamo detto anche ieri, 4 miliardi con l'aggiunta di 1,5 miliardi di oggi, che viene meno, visto che la norma, da quello che si è capito, sul riscatto della laurea e del servizio militare viene levata. Quella cosa lì avrebbe portato in 3 anni 1,5 miliardi. Professoressa Elsa Fornero, che insegna economia e politica all'Università di Torino, editorialista del Sole 24 Ore proprio e soprattutto sui temi della previdenza. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Allora, vediamo di abbassare ulteriormente il mio tasso di popolarità, perché ogni volta che tocchiamo le pensioni, giustamente anche molti ascoltatori si arrabbiano, dicono ma insomma come vi permettete di trattare l'innalzamento dell'età pensionabile come se fosse il male minore. Io purtroppo devo confermare quella che è un'opinione personale e dire che questa manovra e l'attacco al debito italiano di fine luglio-agosto e quello che è successo nei giorni successivi poteva essere l'occasione per chiedere chiaramente un sacrificio aumentando l'età pensionabile. Che cosa... intanto mi dia un giudizio su questa dietrofronto, retromarcia del governo. Meglio così, meglio aver levato questa cosa che andava a penalizzare chi aveva riscattato la laurea e il servizio militare? Beh, anch'io sono pronta a decrescere la mia popolarità, nel senso che io condivido il fatto che, in considerazione della situazione grave che il paese sta vivendo, sia il momento di fare qualcosa ancora sulle pensioni, però non nel modo improvvido e anche improvvisato in cui il governo ha finora proceduto. Sì, no, sì, però qui non si fa così. Le persone vanno prese con serietà, vanno informate, si deve spiegare loro se i sacrifici sono necessari e in che modo vengono distribuiti questi sacrifici, magari anche sulle pensioni. Quindi non è tanto una questione di merito su cui io ho obiettato e quindi che mi fa dire che ha fatto bene il governo a ritirare quella sorta di provvedimento, perché non è mai arrivata a essere un vero provvedimento, ma è piuttosto il modo. Ora, il sistema pensionistico richiede interventi di lungo termine, interventi ben spiegati e interventi strutturali. Se il governo è disposto a fare questo, può anche non farlo nella manovra, l'importante è che lo faccia, l'importante è che le persone lo capiscano e l'importante è che il governo dia anche un esempio su altri fronti che riguardano direttamente i politici. Allora, un paio di risposte agli ascoltatori, poi continuo con lei, professoressa Fornero. Tassare i patrimoni significa tassare il reddito accumulato negli anni e già tassato a sua volta, quindi tassare due volte. Siamo d'accordo, infatti è l'obiezione più forte a qualunque tipo di misura patrimoniale, lo dico a chi scrive. Detto ciò, quando si chiede un contributo di solidarietà, da che mondo è mondo, lo si chiede sulla base poi della disponibilità dei singoli e quindi in maniera anche proporzionale. Ecco perché in molti paesi, in Francia è già stato fatto, si ragiona su una tassazione straordinaria su chi ha patrimoni superiori a un certo livello, fermo restando che questi patrimoni, nella stragrande maggioranza dei casi, sono già stati tassati. Fatemi fare però anche una battuta: i patrimoni scudati col 5% illegalmente esportati, quelli hanno avuto una tassazione così bassa che anche se fossero tassati un altro 5% non mi sembrerebbe una misura di accanimento fiscale nei confronti di chi illegalmente aveva portato i soldi all'estero. Chiudo. L'età pensionabile, attenzione, è una domanda che arriva sempre: se si aumenta l'età pensionabile aumenta la disoccupazione giovanile. Professoressa, ricordiamo per favore che in realtà questo non è vero storicamente, nel senso che il mercato del lavoro non è una torta chiusa, che se io resto un anno in più mio figlio resta disoccupato un anno in più. per quanto sia difficile crederlo, e soprattutto sia difficile crederlo in una situazione di recessione, è vero esattamente il contrario, cioè empiricamente ci sono dati statistici che dimostrano che i mercati che hanno più maggiore tasso di occupazione tra gli anziani hanno anche un maggiore tasso di occupazione tra i giovani e tra le donne. La stessa cosa in effetti vale per le donne, c'è sempre qualcuno che pensa che se le donne vogliono lavorare sottraggono il lavoro agli uomini. Questo storicamente non è stato vero e quindi una società che funziona bene deve accomodare sia il lavoro degli anziani, sia il lavoro delle donne, sia il lavoro dei giovani e non soltanto quello dei maschi adulti. Quindi un mercato del lavoro flessibile ma efficiente, quindi flessibile non solo in uscita ma anche in entrata, anche quando devi assumere, efficiente, dinamico, un mercato del lavoro in cui può restare al lavoro come avviene negli altri paesi europei, un anno in più, due anni in più, chi già lavora senza togliere il posto a chi sta cercando di entrare nel mercato del lavoro. Non è vero che se resti un anno in più in pensione, al lavoro, rubi il tuo posto. Non è su queste dinamiche che si muove il mercato del lavoro. Altra domanda, professoressa, poi arriviamo alla sua proposta. Le baby pensioni. Allora, siamo d'accordo che così come il costo del menù alla Camera e al Senato o i costi della politica siano tutte misure che non cambiano la manovra finanziaria, ma qui stiamo parlando anche di misure simboliche, di misure che diano un segno, che tutti vanno a pagare, che non pagano i soliti noti, che non pagano sempre, che non paga sempre Pantalone. Allora, secondo lei non sarebbe stato corretto inserire anche un ragionamento chiedendo un sacrificio ai baby pensionati, a quelli che insomma hanno lavorato 18 anni, cos'era, 6 mesi un giorno nel caso del pubblico? Perché sì. Almeno come atto simbolico. Sì, direi che qui il ragionamento potrebbe anche essere un po' più esteso, cioè le pensioni delle generazioni passate e vicine al pensionamento erano generose, non in termini assoluti, ma nel rapporto tra ciò che una persona paga e ciò che una persona riceve. L'esempio che faceva lei delle baby pensioni è macroscopico. Queste baby pensioni hanno ricevuto un grossissimo regalo che ovviamente è pagato da qualcun altro, in particolare da noi. Esattamente, da persone come lei nella sua classe di età. Benissimo. Allora si potrebbe, e l'INPS lo può sicuramente fare in maniera anche piuttosto rapida, calcolare grosso modo qual è l'entità di questo regalo ricevuto dalle varie categorie in funzione di regole chiaramente privilegiate e chiedere a qualcuno che ha avuto questo regalo di restituirne una parte. Rigor del vero devo anche dire che qualcosa è già stato fatto, quindi queste pensioni che sono state date soprattutto a donne, ma la motivazione era rimandiamole nelle famiglie, non dimentichiamocelo, che volevano rimandarle a casa, che si occupassero dei figli e del marito e non andassero a disturbare, secondo la logica perversa della quale parlavamo prima, il lavoro degli uomini. Comunque queste pensioni sono già state ridotte nel tempo perché si è tagliata l'indicizzazione, perché non si sono fatti incrementi. Comunque è vero che queste categorie hanno ricevuto dei grossi regali. Se si devono fare dei sacrifici, forse è bene chiedere a queste persone di restituire una parte in funzione delle disponibilità che hanno e del regalo che hanno ricevuto. Allora, sapevo che il tema avrebbe creato qualche fastidio agli ascoltatori, ma va bene così. C'è chi dice, dite cavolate perché 5 meno 2 fa sempre 3. No, mi riferisco al fatto che se uno resta al lavoro un anno in più non toglie il lavoro per un anno a un giovane. Attenzione, il tasso di disoccupazione italiano è sceso dal 99 al 2008 ed è salito bruscamente negli ultimi due anni, al di là dell'età pensionabile. Sì. Cioè le variabili che intervengono sulla disoccupazione, intesa come in diminuzione o in crescita, sono variabili, ma lo dimostra la storia, non è che stiamo qua a raccontarvi la favoletta, sono variabili esterne, esogene, cioè dipendono da come si comporta un'economia, da quanti posti di lavoro riesce a creare, da quanto è competitiva, da quanto è produttiva, da come va la dinamica internazionale, da come va l'export, da come vanno i consumi. L'età pensionabile non c'entra una beata niente, per cui attenzione su questo. Mi rendo conto che il sillogismo viene automatico, se tu resti al lavoro un anno in più levi il lavoro a mio figlio per un anno, ma non è così nei numeri, nei fatti. Un po' di fiducia. Poi c'è chi dice che sono troppo di sinistra perché parlo di tassare la patrimoniale, c'è chi dice che sono troppo di destra perché prima bisogna colpire lo scudo fiscale e poi pensare alle pensioni. Meglio così, vorrei dire che sono di centro. Professoressa Fornero, mi dice concretamente che cosa avrebbe dovuto fare il governo? Perché sull'età pensionabile delle donne c'è una stima oggi messa a punto dai tecnici del Ministero in cui se vi fosse un aumento immediato dell'età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia per le donne nel settore privato, cioè se la si portasse da 60 a 65 anni, equiparandola in questo modo a quella degli uomini e delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione, vi sarebbero risparmi di 3 miliardi e mezzo nel triennio 2013-2015. Lei è d'accordo o no? Cioè, d'accordo a fare questo scalone? Dunque, io sono convinta che questa è una delle cose da fare, anche perché a furia di intervenire in maniera spezzettata, noi creiamo sempre differenze di trattamento che sono poco giustificate. Abbiamo equiparato l'età di pensionamento delle donne nel pubblico impiego a quella degli uomini a partire dall'anno prossimo, 65 anni, non si capisce perché le donne che lavorano nel settore privato, che non sono tutte operaie della Fiat, ma per esempio sono anche nel settore bancario, assicurativo, quindi settori che non è che... Cioè non solo lavori usuranti, dice lei. Per definizione. Non si capisce quindi perché le donne del settore privato debbano continuare a poter andare in pensione di vecchiaia a 60 anni. Però io c'è una domanda molto semplice che faccio e che non trova risposta. Il Parlamento ha approvato tanto tempo fa una riforma delle pensioni che vale per lei, vale per tutte le generazioni giovani. La mia domanda è perché non possiamo rendere quella regola valida per tutti, indipendentemente dall'anzianità di lavoro, per il futuro, non dico per il passato. E quindi io dico, avete approvato una riforma, applicatela a tutte le classi di età, anche se restano solo più 2-3 anni di lavoro. Questo vuol dire rendere la regola uguale per tutti. E guardi che c'è un bel passo di democrazia e di trasparenza se le regole, anziché segmentarle in base al grado di vicinanza a chi fa le leggi, piuttosto amici, piuttosto che nemici, le si rende uguali e poi casomai si fanno eccezioni per i poveri, per quelli che sono sfortunati, non per gli amici degli amici e per quelli che sono già privilegiati. Questo è una... Cioè lei dice la riforma di legge è molto benevola con chi sta per andare in pensione, traduco in maniera un po' semplicistica, sì, professoressa, ed è molto dura, è molto, diciamo, europea, rigorosa con chi ha appena iniziato a versare i contributi. Anche qui forzo un po' l'analisi. Rendiamola omogenea per tutti, non avvantaggiamo solo alcune fasce anche elettorali che pesano di più e che magari hanno sui 55 anni, vuoi che pesino di più per un elemento demografico, vuoi per un elemento di voto politico, e che si trovano più vicini all'età della pensione. Applichiamo queste regole per tutti. Non c'è nessuna finanziaria che abbia solo sorrisi e pacche sulle spalle. Spesso le finanziarie, soprattutto in questo periodo, sono lacrime e sangue. Bisogna capire lacrime e sangue da cosa derivano. Allora, è chiaro che anche la misura sulle pensioni è una misura sgradevole, che aumentare l'età pensionabile, a maggior ragione per chi è vicino alla pensione e ha già fatto un progetto di vita, è una cosa assolutamente sgradevole. Però l'alternativa è quello che stiamo vedendo, cioè un aumento della tassazione diretta con le accise di benzina, tabacchi e alcolici, un aumento della tassazione diretta a livello locale, perché se tu comunque levi 6 miliardi agli enti locali, da qualche parte questi li avranno, oppure penalizzeranno i servizi essenziali, trasporti, asili e quant'altro. Cioè bisogna capire che cosa. Ovvio che uno dice la lotta all'evasione fiscale, ma la lotta all'evasione fiscale purtroppo per l'Europa, per la Banca Centrale Europea e per i mercati non è contabilizzabile, perché non sappiamo quanto effettivamente avverrà. O fai un prelievo forzoso e allora lo contabilizzi perché è forzoso, o se no dire che ti aspetti X miliardi alla lotta all'evasione è un esercizio di speranza, di fiducia, ma non va oltre questo. Professoressa Fornero, l'obiezione di molti ascoltatori è: qui ragioniamo di aumentare l'età pensionabile quando il problema è l'espulsione dal mercato del lavoro di chi ha 55-57 anni. Sì, mi lasci dire una cosa, che forse anche perché noi la lotta all'evasione fiscale non sappiamo farla molto bene, per questo abbiamo molta incertezza, però questo era un inciso. Il punto di nuovo è questo: noi abbiamo offerto con tutte le varie forme di pensionamento anticipato alle imprese un comodo alibi, ogni volta che si trattava di ridurre il costo del lavoro, di mandare fuori con facilità la forza lavoro relativamente anziana. Se per esempio noi diciamo che il pensionamento è flessibile, l'età di pensionamento minima è 63 anni, i coefficienti variano fino a 70 anni, alle imprese non è possibile mandare via prima la manodopera e anche loro devono trovare modalità di impiego della manodopera, modalità produttive di impiego della manodopera anziana, senza ricorrere a quello che è stato una comoda via di uscita in tutti questi anni e che ha abbondantemente scaricato costi sul sistema pensionistico. Quindi di nuovo abbiamo bisogno di questo cambiamento radicale, per cui alla fine sul sistema pensionistico e quindi sulle generazioni giovani si scaricano tanti costi di leggi o pezzettini di legge abbastanza poco razionali e poco sostenibili nel lungo periodo e che hanno portato a pensionamenti in giovane età nel nostro paese in misura molto superiore a quella che è avvenuta in altri paesi. Quindi lei dice che paradossalmente questa norma e il nostro sistema previdenziale permette, favorisce, diciamo, agevola le imprese a mandarti in prepensionamento con un costo ulteriore per il sistema previdenziale, quindi per tutti noi, e invece riformando e aumentando l'età pensionabile l'impresa stessa sarebbe in qualche modo, non dico obbligata ma quasi, a trovare una tua forma di collocazione dentro l'impresa, visto che abbiamo per concludere, professoressa Fornero, ricordato che forse sulle baby pensioni si poteva intervenire e chiedere una solidarietà, così come sui patrimoni più alti sopra il 1,5 milioni di euro, fatta salva la prima casa, però tutti i patrimoni, non quelli, cioè quindi anche quelli intestati alle società di comodo, su barche e quant'altro. Possiamo anche dire che forse una manovra sulle pensioni sarebbe più credibile se iniziasse dalle pensioni dei deputati, cioè che non è che becchi la pensione se riesce a fare metà legislatura? Io l'ho scritto varie volte, credo che questa idea che i deputati debbano avere non una pensione calcolata secondo i normali criteri, ma un vitalizio parametrato alla loro, chiamiamola, dignità professionale, siccome in questi anni non se n'è vista molta di questa dignità professionale, forse è il caso di rivedere. E la regola deve essere quella che vale per tutti i lavoratori. E quindi anche i pensionati, anche i calciatori, anche i professori, tutti devono rientrare in questo meccanismo. È una questione anche di democrazia e, ripeto, le pensioni pubbliche richiedono che le eccezioni, semmai, si facciano a favore dei deboli e non a favore dei privilegiati. Cioè, quindi non fare i deboli con i forti, i forti con i deboli. Sì, io devo dire che al di là di quella che è l'efficienza e l'efficacia dell'attività parlamentare, non capisco comunque il vitalizio, anche se uno avesse fatto un lavoro egregio, se è a servizio del bene pubblico ti si dà chiaramente una diaria per mantenerti, per via, per tutte le tue funzioni, ma non si capisce perché deve avere un vitalizio, cioè tu hai reso un servizio al paese come civil servant, come diciamo servizio civile al paese, se no restavi a fare il lavoro che facevi prima e non ti candidavi. Comunque grazie a Elsa Fornero, editorialista del Sole 24 Ore e docente di economia politica. Adesso però i mercati finanziari. Che sono andati bene, hanno chiuso anche meglio, praticamente sui massimi, più 3% Milano, più 3% Parigi, più 2,5% Francoforte, più 2,30% Londra. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, bene le borse europee, tra l'altro devo dire tutte, con l'eccezione fuori dall'Europa, dell'America, che guadagna lo 0,6%, quindi un po' meno rispetto alla media, di nuovo in alcuni settori a tirare la volata, non i bancari oggi però, Livia. No, infatti i bancari hanno comunque chiuso in territorio positivo in Europa, però hanno fatto meno bene di auto, che del settore auto, che ha chiuso in rialzo di oltre il 3%, delle costruzioni che hanno chiuso in salita di oltre il 4%, settori su cui si sono verificate delle ricoperture, settori che erano stati penalizzati nei giorni passati. Quindi sostanzialmente il tema di oggi sono state le ricoperture sui titoli industriali che erano stati maggiormente penalizzati, e sono proprio stati questi titoli, quindi questi settori, a innescare, a guidare gli acquisti in Europa. Esatto, citavi appunto industriali, autocostruzione, Milano non fa eccezione. Partiamo subito con il commento. Fiat Industrial guadagna il 7,46%, Pirelli 6,70%, Saipem il 5,60%, Prismian, quindi l'ex Pirelli Cavi, il 5%, Impregilo più 4,80%, e Fiat intesa come auto il 4,30% e Xol più 4,30%. Sì, allora appunto sì, appunto, sono i titoli che fanno parte del settore degli industriali. Allora, per quanto riguarda il settore auto, vi è quindi un rinnovato interesse per i titoli dell'industria penalizzati nelle scorse settimane, preferiti quindi oggi rispetto al settore bancario. Inoltre, un'altra cosa bisogna aggiungere, che secondo alcuni operatori si tratta dei titoli che beneficiano anche, o che potrebbero beneficiare dell'effetto Olivia, quindi si parla di Fiat Industrial di Pirelli, che fornisce appunto pneumatici che potrebbero essere particolarmente interessati dalla ricostruzione in Libia. Per quanto riguarda Fiat, bisogna sottolineare che Fiat Industrial è stato il miglior titolo del listino milanese, ha guadagnato il 7,46%, ha fatto bene anche Exor più 4,26% e Fiat più 4,29%, nonostante alcuni quotidiani polacchi abbiano riportato che la casa torinese intende ridurre quest'anno del 10% la produzione di autovetture in Polonia. Comunque il titolo ha beneficiato più che altro dell'andamento del settore, non ha risentito di questa indiscrezione. Ecco, al di là del settore, dell'andamento complessivo, ci sono invece alcuni titoli che hanno anche risentito in senso positivo di notizie specifiche. Mi riferisco a Pirelli, Prismian e anche titoli minori come Prelio. Su Pirelli ci sono notizie specifiche, il secondo miglior titolo più 6,70%, ma anche su Prismian. Sì, infatti, allora, per quanto riguarda Pirelli, appunto, il titolo del risentito del buon andamento del settore auto e della notizia relativa all'inaugurazione dell'impianto in Romania, in cui verranno prodotti nel 2011 circa 7 milioni di pneumatici, che saliranno poi 10 milioni nel 2013. Per quanto riguarda invece Prismian ha realizzato la sesta seduta consecutiva di rialzo ed è tornata a quota, sopra quota 11 euro, grazie soprattutto al riposizionamento degli investitori. Bisogna sottolineare che il titolo ha recuperato il oltre il 17% dal 23 agosto, grazie soprattutto ai conti semestrali che erano stati pubblicati il 26 agosto e che hanno evidenziato una crescita dell'utile, in particolare un incremento delle stime sulle sinergie derivanti dall'integrazione con la società olandese Draka, e quindi di questo ha beneficiato il titolo. Eh sì, Draka, che fu un'acquisizione importantissima del gruppo. Tra i settori, diamo anche altri titoli, poi vado ai più piccoli. Mediolanum più 5,23, Tods più 4,91, l'automatica più 4,5, Campari più 4,30, Finmeccanica più 4,30 anch'essa, come Fiat dicevamo, Parmalat più 4,20 come Luxottica, il Banco Popolare più 4%, Tenaris più 4, Eni più 3,80, UbiBanca più 3,44, Atlantia più 3%, Steam Microtronics più 2,90, Buzzunice più 2,90 anch'essa, il 2,70% è il rialzo di Enel Green Power e di Unicredit, ma anche delle Generali e di Mediaset. Chiudiamo con Fondiaria Sai più 2,30, Autogrill più 2,30, Azimut e Diasorin più 2,2%, come Telecom Italia Eterna, il Monte dei Paschi più 1,90%. Peggior titolo oggi, nel senso che è invariato, Intesa San Paolo, che non si è mossa. Tra i titoli minori abbiamo, intanto vi do i migliori e i peggiori in assoluto: Arena più 14,30, Fintel più 11,60, Cell Therapeutics più 11,20 e poi abbiamo Deutsche Telekom meno 6%. Volevo sapere se su Arena c'è qualche novità e poi invece Prelios. Allora, su Arena no, non ci sono state informazioni. Mm-hmm. che possono aver influenzato il titolo, almeno negli ultimi giorni. Mentre su Prelios, che ha avuto una crescita anche consistente, su notizie di mercato. Sì, infatti, la notizia di oggi è che il consorzio Egg Street, di cui Prelios detiene il 12%, ha venduto 2 centri commerciali, quindi incassando 248 milioni di euro, che si aggiungono quindi ai 250 milioni già incassati prima dell'estate dalla vendita di altri 3 immobili. Prosegue così la strategia di riduzione del debito della società, e questa operazione, l'operazione comunicata oggi in particolare, avrà un impatto positivo sui ricavi della piattaforma servizi per circa un milione. Livia, tu bevi vino? Sì, sono piemontese, quindi sì. Ah, sei non troppo, spero. No, no. Anche perché non l'avresti mai detto in diretta. Beh, sappi che l'annata che si sta, diciamo, realizzando adesso, quindi la vendemmia che si sta facendo, dovrebbe essere per qualità una delle migliori in assoluto. E con questa notizia, spero ti farai qualcosa. Grazie, Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Parliamo di vino, allora. Dai, facciteci respirare ogni tanto, perché non è che possiamo sempre parlare finanziari, l'attacco dei mercati, la speculazione sull'euro, sui debiti sovrani, tanto la nuttata è lunga, no? Ottima qualità ma produzione in calo, sembra una contraddizione, invece è il dato sulla raccolta che si sta effettuando proprio in questi giorni, la vendemmia 2011, l'estate, tranne alcuni colpi a inizio agosto, è stata un'estate tutto sommato fredda rispetto alla media, quindi nessun problema sugli zuccheri dell'uva, anzi sembra, a giudicare dalle varie descrizioni, che si tratterà proprio di un 2011 eccezionale, perlomeno sul vino, sulla manovra no, sui conti no, ma almeno ce lo dimenticheremo bevendo. E stiamo parlando di 13 miliardi e mezzo di euro del settore, con 2 miliardi di indotto, prima voce nell'export agroalimentare italiano, 4 miliardi vale il nostro export, siamo i primi al mondo. Pensate che un quinto delle bottiglie al mondo sono italiane e una su tre in Europa. Siccome, voglio dire, io lo bevo più che capirne, abbiamo invitato anche un esperto, che è il direttore di Assoenology, l'associazione degli enologi enotecnici italiani, 4.000 tecnici che operano su tutto il territorio. Direttore Giuseppe Martelli, buonasera. Buonasera a lei e radioascoltatori. Le assicuro che non ho bevuto prima della trasmissione, ogni tanto dipende come vanno le giornate, posso bere dopo. Senta, lo slogan produzione in calo, ottima qualità, sembra un po' chiedere agli attori come va il tuo film, il tour, sempre bene, sempre bene. Al di là di questo, mi sembra che però il meteo vi abbia aiutato, o alcune regioni sono state penalizzate un po' di più da queste temperature più miti? Ma diciamo che il clima bizzarro che ha caratterizzato quest'annata ha determinato diversi colpi di scena, che comunque questi picchi alti di piovosità, di basse temperature, di alte temperature sono capitate proprio quando ciò era favorevole alla vite, quindi il ciclo vegetativo di questa pianta, a differenza di altre colture, è andato molto bene, e se d'agosto, quei pochi giorni che mancano, ma soprattutto settembre, ci aiuterà e andrà avanti così come sta andando, non disperiamo di avere, come ha detto lei, un millesimo degno di tutta considerazione. Allora, chi produce più vino? Il Veneto, dico produce, non beve, è la regione più produttiva, 8 milioni e 400 mila ettolitri, poi Emilia Romagna, Puglia e Sicilia. Quasi il 60% di tutto il vino italiano viene prodotto da queste regioni. La produzione è in calo, chiariamolo, non per un problema tra virgolette produttivo, ma anche per delle scelte. Che cos'è, per esempio, nel caso della Sicilia? C'è una produzione in calo del 20%, ma cos'è la cosiddetta vendemmia verde? Beh, la vendemmia verde è praticamente una pratica che determina la mancata produzione per un anno dei vigneti, quindi si tengono in stand-by, non si eliminano, ma non si fanno produrre. E di conseguenza tutto questo avviene sulla base di contributi comunitari quando ci troviamo in zone e in produzioni che non sono richieste dal mercato. Quindi viene fatto non, diciamo, per il benessere della vite, ma per non saturare il mercato? Esattamente. E quindi non è una buona notizia vedere che la Sicilia ha fatto un meno 20% e anche il Piemonte ha utilizzato la misura, l'Umbria, meno le altre regioni. Beh, diciamo che la Sicilia l'ha utilizzata di più perché ha una superficie vitata più ampia delle regioni che lei ha citato. Il Piemonte e altre regioni hanno utilizzato questa possibilità, ma in termini molto ma molto più contenuti. Del resto oggi la quantità è qualcosa che non ci interessa. L'importante è produrre qualità e soprattutto produrre qualità verso quelle tipologie di prodotto che sono richieste dal mercato. Mi dica una cosa in totale onestà, visto che voi come enologi fate anche e soprattutto consulenza a livello produttivo, di ciclo produttivo. Voi mettete molta enfasi nel vendemmia, ottima qualità, produzione in calo, ma in realtà poi per la penetrazione sui mercati e quindi mantenere le quote che abbiamo raggiunto a livello mondiale, io dico solo due cifre, più 21% in America, più 44% in Russia, più 126% in Cina, che sarà poco, però è un bel inizio, e più 12% in Europa. Ecco, per mantenere queste quote, è veramente così importante la qualità della vendemmia o conta più il rapporto prezzo-qualità e anche un po' di capacità di fare marketing uniti, non andando sempre in ordine sparso sui mercati e sui canali finali di sbocco? Non è importante, è determinante avere le cose che lei ha detto, perché, perché un conto è produrre la materia prima, un altro conto è trasformarla quindi in vino, e poi però il vino per l'Italia è cultura, tradizione, storia, però soprattutto è business, visto e considerato che è la punta di diamante delle nostre esportazioni agroalimentari. Basti pensare che in certi importanti mercati come gli Stati Uniti, come il Canada e anche il Giappone, il 30% delle nostre esportazioni alimentari, in alcuni casi ancora di più, è dato dal prodotto vino. Mm. E quindi lei mi dice la qualità è importante per chi vuole fare poi così il saputello a cena o dire beh questo è 2011, ma in realtà, no vabbè lo so che adesso le fa ridere, però insomma chi se la tira un po', ma in realtà quando parliamo di cifre, di numeri, di quote di mercato sono altri i fattori che intervengono, anche se non dovrebbe dirmelo, ma tanto no, siamo tra me e lei. No, glielo dico con molta tranquillità, sincerità e trasparenza, nel senso che, attenzione, innanzitutto va detto che la qualità non deve essere soltanto a livello di vini blasonati e di vini che costano tanto. La qualità deve essere a tutti i livelli, anche il vino di tutti i giorni deve essere di qualità. Questo vale per il vino, ma vale per qualsiasi altro bene di largo consumo. È logico che la qualità deve essere rapportata alla fascia di consumo e soprattutto alle potenzialità di spesa di quello che io chiamo Sua Maestà il consumatore. Ecco, che lo chiama lei, non tutti lo chiamano così. Io lo chiamo perché... No, ma siamo d'accordo. No, lo dico perché poi ci si riempie molto la bocca sulla qualità. Io dico, attenzione, le strategie commerciali, certo che non possono prescindere dalla qualità, ma vengono fatte anche da altro. Grazie per averci fatto respirare, inebriare quasi, in questi minuti. Grazie al direttore di Asso Enologi, Giuseppe Martelli. Il dato di oggi, oltre a una disoccupazione giovanile che è in leggero calo rispetto a giugno, ma è in aumento di quasi un punto percentuale rispetto a un anno prima, e oltre alle modifiche alla finanziaria di cui parleremo tra un attimo, il dato di oggi che riguarda l'economia italiana ha anche a che fare con l'inflazione. Perché lo dico? Perché ad agosto, lo segnala oggi l'Istat, è salita al 2,8%, è il dato più alto dell'inflazione dal 2008. E voi direte, come alcuni già lo scrivono al 349-238-6666, come fanno a salire i prezzi quando l'economia è stagnante e i consumi sono fermi? Di solito l'inflazione cresce quando un'economia è in espansione, la gente spende di più e i prezzi salgono. C'è un altro elemento, quando l'inflazione può salire per elementi esterni, si chiama infatti inflazione importata, cioè anche se l'economia non sta andando bene, i consumi non sono alle stelle, anzi tutti tirano un po' la cinghia, aumentano i prezzi. Il dato di oggi diffuso dall'Istat su questo è inequivocabile. Tutti gli aumenti registrati sui prezzi al consumo sono aumenti dovuti a un fattore esterno come il prezzo dell'energia. Il 2,8% di inflazione, infatti, si è avuto grazie, si fa per dire, aumenti nel trasporto marittimo del 61% rispetto all'agosto 2010, del trasporto aereo, biglietti aerei del 5% sul 2010, del 17% sul mese di luglio e chiaramente anche i trasporti ferroviari ne hanno risentito, più 10% rispetto a un anno prima. La benzina più 1% rispetto a luglio, più 16% rispetto a un anno prima. Non entro nella polemica del perché la benzina continua a essere così alta anche se il prezzo del petrolio è più basso, ne abbiamo parlato tutta l'estate. Insomma, questo è il dato. I Codacons, quindi una delle associazioni dei consumatori, sostengono che l'estate che si sta chiudendo sia stata la più calda sul fronte dei prezzi. L'incremento di prezzi e tariffe è stato il più elevato per gli italiani dagli ultimi 10 anni. Il tutto si inserisce, e qui torna con forza la legge finanziaria, in una situazione in cui all'interno della legge finanziaria c'è anche una voce che si chiama Robin Hood Tax, quella che va a applicarsi soprattutto sul settore energetico, un gettito stimato di 3 miliardi e 600 milioni di euro in 3 anni come addizionale IRES applicata alle aziende del settore energetico, anche se si sta ancora discutendo di un'estensione. E che ci possa essere un effetto sul costo finale che andiamo a pagare di questa tassa applicata ai produttori di energia, lo ha sostenuto ieri il Presidente della Corte dei Conti, Gian Paolino, in audizione al Senato. Sentiamo questo passaggio. In una valutazione necessariamente di sintesi, la Corte ritiene in via preliminare di avanzare perplessità sulla scelta che ha condotto a formulare e quantificare la manovra correttiva senza un aggiornamento del quadro macroeconomico previsionale. Aggiornamento indispensabile in relazione alle meno favorevoli condizioni internazionali e agli effetti connessi alle stesse misure di contenimento del disavanzo contenuto nel decreto. Sotto questo aspetto, il ricorso prevalente alla leva fiscale, quasi 3/4 della manovra se si sommano interventi diretti e indotti, e in particolare le modalità di intervento prescelte determinano la compressione del reddito disponibile e accentuano i rischi di effetti depressivi. In tal modo appare ribadita la logica ribaltata la logica originaria della delega fiscale, da strumento per mera redistribuzione del carico fiscale a mezzo per il reperimento di ingenti risorse aggiuntive fino a circa 20 miliardi per la correzione del disavanzo pubblico. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Franco Bruni, con cui poi parleremo anche della manovra finanziaria. Però Tabarelli, visto che l'inflazione di agosto è un'inflazione tutta, diciamo, importata dall'energia, c'è chi parla tra gli ascoltatori di stagflazione. Non siamo alla stagflazione, non siamo alla stagnazione economica, siamo a una bassa crescita economica e l'inflazione al 2,8% è alta, ma non è drammatica. Lei è d'accordo con chi, tra cui il Presidente della Corte dei Conti, ritiene che dalla Robin Hood Tax vi saranno effetti sui consumatori e non c'è modo di aumentare la tassazione dei gruppi energetici, in questo caso, visto che questo vuole il governo, senza che poi questo venga scaricato su di noi? Ma la stessa manovra che fu introdotta, questa addizionale IRES, cioè questa Robin Tax, fu aggiunta nel luglio del 2008, prevede espressamente che non venga ribaltata sui consumatori finali, e su questo deve vigilare l'autorità, Perciò in realtà il governo in quella situazione contingente prevedeva, e lo prevede tuttora, che non venga ribaltata sul prezzo al consumo. Ma questa però è una norma anticostituzionale. Perché anticostituzionale, ha detto? Sì, ripeto, è una norma anticostituzionale. Purtroppo perché? Le compagnie petrolifere nel 2008 non hanno avuto il coraggio di seguire la logica economica che dovrebbe contraddistinguere l'attività economica di un paese libero come il nostro, e hanno preferito giocare in difesa. Adesso c'è una piccola società distributrice di carburanti di Reggio Emilia che ha fatto ricorso presso la commissione tributaria provinciale, gli ha dato ragione, perciò questa cosa dovrebbe essere andata alla Corte Costituzionale, che dovrebbe dichiararsi in proposito. Io spero che sia, perché che lo dichiari quello che è, cioè che questo paese non si può aumentare le tasse vietando poi a chi fa attività economica in un settore libero come quello dei dell'energia, che è stato liberalizzato paradossalmente proprio 10 anni fa, mi riferisco all'elettricità e al gas, che puoi vietare che venga traslato ai consumi, perché così si regola di fatto un settore che è considerato libero. Ecco, detto questo, ovviamente i consumatori lo pagheranno, ma non dico direttamente, perché appunto se no vanno le compagnie petrolifere, le società energetiche, anche quelli che fanno fonti rinnovabili paradossalmente adesso, e andrebbero contro la legge, però lo pagheranno in termini di minore crescita, perché anche se c'è un settore che ha pronti grossi investimenti che farebbero ripartire un po' l'economia, è proprio quello energetico, facendo così. Cioè, Tabarelli, scusi, mi faccia capire, lei dice la norma è anticostituzionale non perché ovviamente non sia costituzionale tassare in più un settore, questo si può fare, ma non si può impedire a quel settore di scaricare poi nella filiera, quindi su noi clienti finali, gli aumenti che ha ricevuto. Esatto. Molto banale, c'è l'articolo 41 che della Costituzione, che dice che il paese si ispira a regole di mercato libero. Il mercato non è libero quando è espressamente previsto dalla legge che quel settore lì è sotto concessione è soggetto a tariffe amministrate. In quel caso lì allora lo Stato fissa i prezzi e anche le tasse. E può dire non si possono aumentare i prezzi, ma se quel settore libero come quello energetico quasi totalmente, tranne paradossalmente quello della distribuzione e trasmissione che è stato fatto rientrare adesso nella Profit Tax, ma a parte questa complicazione, ecco, nell'energia elettrica, nel petrolio, se è ritenuto libero non possiamo vietare di scaricare le tasse poi sul consumatore finale. Questo è un non senso. Però questo l'aveva fatto Tremonti, aveva anche una sua logica. Nel 2008 il prezzo del petrolio va su a $147, si riteneva, anche qua possiamo discutere, che ci fosse una rendita ingiustificata, un windfall profit che pertanto andava tassato, e allora si vietava in quel momento là, quando c'era $147, di traslare il consumo. In questo momento, con una politica fiscale grossa per incamerare, non ha molto senso. Sì, ora io non metto in dubbio che sia anticostituzionale, è chiaro che a me non fa piacere se poi la Consulta dà ragione alle compagnie petrolifere e quindi permetterà di scaricare l'aumento della tassazione su noi clienti finali, perché questo vuol dire tassazione indiretta per noi, Tabarelli, questo se tutto questo si traduce in un aumento proporzionale del costo della benzina e delle materie lavorate del petrolio, voglio dire, poi ce lo ritroviamo quando facciamo la spesa, di fatto è una tassazione diretta per me, per lei e per tutti gli italiani, no? Questa è nella logica però economica, se le tasse aumentano perché aumenta l'imposta sul profitto delle imprese, che si chiama IRES o IRAP, va bene, le imprese sono poi libere, il gioco della competizione, fare sì che poi i prezzi rimangano stabili e che le tasse vadano a incidere sui profitti, ma questo non lo deve dire. Sì, no, lei ha ragione, però è chiaro che nel momento, adesso non mi faccio difendere il governo, ma nel momento in cui devi tirare fuori altri 45 miliardi di euro, probabilmente vai a tassare chi ne ha di più, no? Nel senso, mi rendo conto che il ragionamento è molto brutale, ma siccome è giorni che se si toccano le pensioni si infuriano gli ascoltatori, se si tocca l'IVA si infuriano gli ascoltatori, se si tocca il riscatto dell'allora si infuriano gli ascoltatori, cioè è chiaro che tutti si arrabbiano. Ora lei giustamente dice è una cosa da paese, da socialismo reale, non permettere poi alle compagnie di fare i prezzi che vogliono, perché se gli aumenta la tassazione, però da qualche parte questi soldi dobbiamo trovarli, no? Guardi che poi paradossalmente il settore che vorrebbe essere tassato con questa Robin Hood Tax, quella del 2008, che era quella della distribuzione e raffinazione di petrolio in Italia, nel 2008, 2009, 2010 è stata in perdita. Pertanto non sappiamo neanche di quanti di quei 1,5 miliardi che erano aspettati nel 2009 sul 2008 sono stati in realtà incassati, perché non c'era profitto su cui tassare questa addizionale. Pertanto, e anche questo si basa, questo voler tassare chi guadagna di più, che il politico Tremonti ha ragione nella sua logica populistica, anche dire voi petrolieri guadagnate tantissimo quando il prezzo è $150 vi tasso, ma questa è vera solo in parte, pertanto non ha molto senso, ecco, così sotto il profilo formale è importante dire che è anticostituzionale, ma poi anche perché le entrate saranno molto meno di quelle che si aspettano, come sono state nel 2009 e nel 2010. No, ma tu, voglio dire, c'è un libro di Paolo Sorrentino che si chiama Hanno tutti ragione, mi sembra un po' delle volte il filo rosso di questo programma. Hanno tutti ragione, ha ragione lei nel dire che è una misura antimercato, una misura non liberale, quella di poi obbligare le compagnie petrolifere, le compagnie energetiche a beccarsi una tassa ma non scaricarla. Dico solo che alla fine però occorre tirar fuori tra la manovra di luglio e la manovra di agosto per i prossimi 3 anni 130 miliardi di euro, e da qualche parte questi soldi dovranno, se no glieli diamo noi, glieli diamo noi comunque. Tabarelli, grazie, ho capito benissimo la sua posizione ed era comunque importante sentire anche, diciamo, l'opinione di chi, stante alla finanziaria che abbiamo letto, si beccherà una tassazione aggiuntiva che vale 3 miliardi e 600 milioni di euro in 3 anni, e quindi l'azienda del settore energetico. Grazie al presidente di Nomisma Energia. Professor Franco Bruni, insegna economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa, buonasera. Buonasera. Allora chiudiamo in bellezza con lei, no? Nel senso che dopo aver sentito la sua collega Elsa Fornero dirci che è stata un'occasione persa non alzare l'età pensionabile, adesso giustamente Tabarelli fa presente che le società energetiche vengono violentate a livello anche costituzionale da questa norma, io vorrei chiudere dopo lo spazio, diciamo, positivo dei mercati e positivo della qualità della vendemmia, vorrei commentare con lei quelle che sono invece oggi le dichiarazioni della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea, del Financial Times, del Wall Street Journal, tutto però dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Non ci aspettiamo che i target di bilancio vengano messi in discussione dall'Italia, soprattutto per ristabilire la fiducia verso l'economia italiana sui mercati. Noi presteremo molta attenzione alla composizione del pacchetto finale della manovra quando il testo ci sarà presentato. Siamo fiduciosi, in particolare, che le misure per la crescita divengano ancora più prominenti. Ciò è molto importante per l'Italia, dove l'attività economica risulta ancora moderata. È importante includere dunque nella manovra gli strumenti necessari per rafforzare la crescita e di conseguenza favorire l'occupazione. Non chiediamo necessariamente sforzi ulteriori, è l'architettura della manovra che deve contenere misure ad hoc su ricerca e sviluppo, energia e altro ancora, misure tutte finalizzate a stimolare la crescita. Questa è una delle principali sfide per l'economia italiana. Stiamo assistendo, non solo in Europa ma globalmente, a un certo rallentamento dell'attività economica, il che rende ancora più necessario introdurre misure per sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro. Infine, la Commissione Europea non pone alcuna scadenza all'Italia per la presentazione della manovra. È però chiaro che prima si fa chiarezza su un testo finale, meglio si contribuirà a dissipare l'incertezza sui mercati. I mercati sono molto nervosi, come abbiamo visto quest'estate. Occorre ora rimuovere tutte le incertezze. Così il portavoce del commissario europeo per gli affari economico monetari Olli Rehn, si chiama Amadeo Altafai, e lo ha intervistato il nostro Sergio Nava. Chiarissimo, professor Bruni, quello che dice la Commissione europea. Vogliamo capire quali sono le misure strutturali per la crescita. Aggiungo che oggi il Wall Street Journal ha scritto in un pezzo: l'Italia si scopre con i giorni contati e deve dare, ripagare la fiducia che le è stata concessa la Banca Centrale Europea. E il Financial Times in prima pagina dice: stanno arrivando dei messaggi confusi ai mercati, serve coerenza. Nel giorno in cui appunto è saltata la norma della manovra che rendeva impossibile calcolare per le pensioni di anzianità gli anni di università del servizio militare, quindi non c'è più. In una domanda molto semplice, secondo lei in questo momento il nervosismo di chi ci osserva dall'estero, BCE, Financial Times, Commissione, è più dovuto al fatto che iniziano a mancare alcuni soldi di quelli previsti, 4 miliardi, adesso viene meno anche questa norma, vediamo, comunque 4 miliardi circa, o all'assenza di misure strutturali, cioè al fatto che una manovra che va a tamponare, tagliare, aumentare le tasse, tagliare la spesa, ma non si capisce come poi questo reggerà nel futuro? Io penso che il giudizio sia guidato soprattutto dalla sensazione che manchi la regia politica, che manchi la situazione politica necessaria per fare qualunque manovra della portata di quella di cui abbiamo bisogno. La sceneggiata assurda a cui stiamo assistendo mostra che c'è uno scompaginamento dello sceneggiato politico che non garantisce nulla. Interessante che questo commento della Commissione rinvia i mercati, una cosa che non sarebbe successa un po' di tempo fa. Si fa tremare anche un po' i polsi che la Commissione europea dica attenzione, che sennò ve ne accorgerete, ci penseranno i mercati a bastonarvi, non noi. Perché mostra che anche la Commissione probabilmente si sente con scarsi poteri e quindi alla fine a giudicare veramente saranno i mercati. E qui è chiaro che il giudizio dei mercati non è abbastanza, diciamo, impressionistico nel complesso, e l'impressione dominante è quella della confusione politica. Io la faccenda della crescita, naturalmente sono un economista e non c'è nulla che mi sia più caro e più importante della crescita, però per fare delle politiche della crescita ci vuole in primo luogo una coesione politica adeguata, perché le politiche della crescita sono cose difficili, sono cose impegnative che richiedono e non si può inventarsele, quindi quello che si potrebbe fare con questa situazione politica è tirar su un po' di cassa per l'emergenza, dimostrare di essere capaci di fare questo sacrificio, e poi bisogna passare la mano a uno scenario politico diverso, secondo me, così che non è quello dell'opposizione attuale, che è ancora più confuso della maggioranza, ma che è probabilmente un governo straordinario che in qualche modo riprenda le fila del discorso, prendendo distanza di braccio dagli interessi speciali, perché sennò è finita. Cioè lei dice non si riesce a fare una manovra strutturale al di là del tamponamento sui conti pubblici, perché poi gli interessi di parte, certo. E ne abbiamo appena ascoltato uno, quello degli energetici, ma ce ne sono decine in questo paese, prevalgono, e la manovra viene tutta un po' raffazzonata senza una prospettiva di lungo periodo? Fare qualche cosa di tipico da libro di testo, politica macroeconomica di offerta, di crescita, per esempio aumentare di un punto l'IVA e usare i soldi per fare fiscalizzazione degli oneri sociali, che diminuirebbe il costo del lavoro, è il tipico provvedimento macroeconomico per la crescita. Però i veri provvedimenti importanti per la crescita sono quelli microeconomici, ma questo vuol dire avere capacità di fare regolamentazione di settori nuovi che si privatizzano, vuol dire essere capaci di riformare l'università sul serio, facendo pagare le tasse agli studenti e trasformandoli in borse di studio, vuol dire fare politica della ricerca, ma tutte queste cose si possono fare solo se c'è un governo che ha in primo luogo ha la reputazione e la stima della popolazione, altrimenti non si combina niente, perché appena si tocca qualcuno quello salta per aria e trova altri che saltano per aria. Vabbè, e con questa iniezione di ottimismo la puntata si chiude, la ringrazio, perché dopo aver parlato delle pensioni mo lei mi ripropone anche un aumento del punto percentuale sull'IVA, ho capito benissimo, per poi levare invece quello che è il carico di contributi previdenziali che pesa in busta paga. Grazie anche a Franco Bruni e da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Vi auguro buona serata e vi lascio alla nostra programmazione. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.